Dal paese della mediocrità dove non conta chi sei, ma quanti ne hai dove non conta che fai, ma quanto ti fai. Cosa importante rimane a parire, ma sta bene attenti a non farsi sentire infamare la gente anche senza pensare che una nuova posizione te la devi sudare. La realtà fatta di verità, fatta di cose concrete che portano a mente, troppo lontano e più possiamo aspirare, non bisogna pensare, non c'è niente da fare. La realtà fatta di verità, fatta di cose concrete che portano a mente, notare che possiamo aspirare, restiamo a guardare senza farci del male. Senza mai fermarsi per aiutarti, l'occasione, lasciate un'occasione, passate l'occasione, passate, non è mai più tornata. È la realtà fatta di verità, fatta di cose concrete che portano a mente, troppo lontano tu possiamo aspirare, non bisogna pensare, non c'è niente da fare. È la realtà fatta di verità, fatta di cose concrete che portano a mente, troppo lontano tu possiamo aspirare, restiamo a guardare senza farci del male. Senza farci del male. Voglio vivere lontano da questa realtà, lontano dal paese della mediocrità. Voglio un mondo diverso dove essere me stesso e arrestare il sistema che porta.